Sconvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pierluigi Pardo, ciao. Come va? Sai cosa sta facendo Giorgio De Luca, Gianmarco Ferronato in regia, ma per modo di dire, perché è impegnato, Alvise Falzone invece neanche lo vedo. Sai cosa stanno facendo? No. Stanno montando la PlayStation, perché tra un po' il calcio vero sarà quello lì. Ah. Mentre dall'altra parte c'è Oscar Giannino e il resto della compagnia, po' più, leggermente più attempata come sono io, che sono impegnati nel montaggio del calcio Balilla. Io mi dedicherò a quello, se permetti. Sì, ma fare il Subbuteo, no? Il Subbuteo, certo. Subbuteo, poi si fa la finale dei mondiali ai calci. Si fa la finale dei mondiali ai calci di rigore, senza, evitando la partita, ma col Subbuteo. Ci stai? Ottimo. Perché sono già lì. Perché no, siamo tutti già lì, perché Biscardone ha vinto. La notizia è quella, certo, ha vinto, certo, Aldo, certo. Biscardi. Ha vinto Aldo Biscardi e ne abbiamo la prova nel mondialito. Vuoi che lo chiami mondiale per club? Ma si chiama mondiale per club. Vabbè, così siamo precisi, non ci possono dire niente. Vabbè, io lo chiamo mondiale per club in termini dispregiativi, perché anche oggi c'è stato un gol assegnato con la barra, il secondo del Real Madrid che ha vinto 2-0 con l'America, secondo gol a tempo scaduto segnato da Cristiano Ronaldo, ma anche lì fermi tutti, andiamo a vedere la televisione. Tra un po' il calcio lo deciderà Pierluigi Pardo. No, partiamo da ieri, insomma, questo rigore in Cashimi Hunters, America, Medellin, National Medellin, che è stato assegnato dall'arbitro ungherese Kassai, per l'appunto, guardando la TV. Kassai va a richiamare i giocatori di aver visto qualche spinta di troppo. E no, è la VAR che va a richiamare il direttore di gara per quel contatto precedente. E allora attenzione, potrebbe esserci il primo caso di rigore assegnato dalla moviola in campo. Dopo quanto tempo? Quanto tempo è passato, Luca? Non ho cronometrato, ma credo che almeno 25-30 secondi siano passati. Sì, credo di più. Bella, molto interessante poter vedere, assistere in diretta a quello che succede grazie all'uso della VAR. Calcio di rigore. Calcio di rigore. Tiziano Pieri, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori. Allora, ha vinto, dicevo, a Pierluigi Pardo, ha vinto Aldo Biscardi, che combatte questa battaglia ormai da molti anni. Ieri sera abbiamo assistito, appunto, mattina, quel che era dall'altra parte del mondo, abbiamo assistito al calcio di rigore assegnato con la tecnologia. E anche in Italia c'è un'accelerazione, c'è già la gente eccitatissima. Tu cosa ne pensi innanzitutto di quel rigore? Perché c'era una posizione di fuorigioco non rilevata e poi su quello stesso giocatore che è rientrato è stato commesso il fallo da rigore. Ma io direi il titolo è così no. È così no, il titolo è così no. Ecco, il titolo è questo, perché non è possibile snaturare la partita. I supporti tecnologici devono aiutare e supportare l'arbitro, ma non a distanza di 2 minuti. Cioè, la tecnologia c'è e ben venga. Poi nella fattispecie l'episodio a mio modo di vedere è molto borderline, perché c'è una posizione di fuorigioco dal quale il calciatore trae un vantaggio, commette anche un fallo, possiamo dire, poi si svincola e subisce questo fallo. Ecco. Allora mettiamoci d'accordo, perché abbiamo la tecnologia in campo. Io oggi leggo sul Corriere della Sera il tuo collega Casarin che dice che invece la decisione era corretta. No, la decisione era corretta perché aspetta e guarda la disposizione della FIFA, wait and see, e di conseguenza l'assistente ha svolto secondo i canoni e i criteri del regolamento correttamente. A mio modo di vedere, io ho un dubbio che non sia influente un giocatore che da posizione di fuorigioco ostacola un avversario che corre verso il pallone, fa un movimento, quindi è lì che secondo me l'oggetto del contendere. Il fuorigioco, e torniamo a bomba, è troppo complicato, dobbiamo semplificarlo. Sì. Quindi questi poveri cristiani che sono sulla linea laterale hanno una frazione di secondo per decidere. Detto questo, andiamo sull'episodio. Secondo me, ripeto, così stravolgiamo il gioco del calcio. Io non sono per niente favorevole a questi tempi. è sì, ovvio che in fase sì, sperimentale. Sì, in fase sperimentale, ma c'è Giannichi che dice acceleriamo la fase sperimentale perché lo vogliamo in Italia da gennaio 2018, quel che sarà. Pardo, sei d'accordo sul titolo di Pieri, così no? Beh sì, nel senso che la tecnologia deve semplificare le cose, non le deve complicare ulteriormente. Già il regolamento del calcio è un regolamento teoricamente semplice, con poche regole, ma con un'interpretazione molto particolare, no? Molto discrezionale da parte dell'arbitro e dei suoi assistenti, che lo rende da un lato bellissimo, ma che dall'altro, insomma, non è proprio, diciamo, la certezza del diritto fatta a sport, no? Nel senso che sì, sono mille aree grigie, è anche il bello del calcio, ribadisco. Ma certo, però, io sono questo che, quello che penso. Però ecco, questo in assoluto vale anche, per esempio, per quella volta che c'è stato quell'errore tecnologico, se non sbaglio, a Marassi. Cioè, la tecnologia deve servire per semplificare le cose. Se la tecnologia aumenta dibattito e aumenta discussione, allora è un altro gol. Ma io non credo che possa essere altrimenti. La tecnologia non eliminerà il dibattito. No, la tecnologia, per me, io ti dico quello che penso. Io penso che la tecnologia deve servire per risolvere, dal punto di vista scientifico, alcune situazioni che sono metriche. L'abbiamo già detto alcune volte: il gol di Pepe l'anno scorso in Chievo-Roma, il famoso gol non gol di Astori, cioè, queste robe qui. E questo ce l'abbiamo già. Questo ce l'abbiamo, a patto ovviamente che i sensori funzionino e che non ci siano altri problemi, ma questo è certamente il tema vero. Il resto, ciò che riguarda l'entità di un contatto, questo rimane una storia di uomini, grazie a Dio, aggiungerei, e quindi secondo me qui la tecnologia non ci può aiutare. Ok, Tiziano Pieri, come la pensi? Non è più una storia di uomini a questo punto, perché è una storia di uomini e di televisioni. Allora, è vero. E dobbiamo analizzare due cose: la differenza tra goal line technology e la VAR. Ma la credo VAR che sulla goal line technology non ci sia un solo appassionato che sia contrario. Bravissimo, è una comunicazione fredda dove un orologio dell'arbitro si illumina e dice gol, rete. Semplicissimo, una frazione di secondo. Finite le polemiche. Perfetto. Ok. Il discorso della VAR, che è video assistant referee, quindi è un video di assistenza all'arbitro, deve essere più rapida, i tempi devono essere migliorati e velocizzati, se no si diventa un calcio PlayStation, e a me personalmente, questo è il mio modesto parere, non piace. Ma è solo una questione di tempi, cioè è solo una questione secondo di tempistica? Sì, e devono essere molto, come ha detto Pierluigi, molto ridotti i casi di utilizzo. Dovranno lavorare su questo, oggi è ancora in fase sperimentale, anche se in alcune partite la fanno online, ma avrebbero dovuto sfruttare molto di più l'offline con personaggi che ci sono dietro, da Roberto Rosetti in primis per l'Italia, che possono dare dei supporti e migliorare durante il percorso. Ma se la buttiamo alla berlina così, iniziamo una partita online, 5 partite offline, non va bene. Dobbiamo dare agli spettatori e ai calciatori, quindi agli addetti ai lavori, anche un prodotto finito, che non ci siano discussioni, se no, se impariamo è una scuola guida, e questo secondo bravissimo, me non va bene. Infatti io sposo in pieno Pierluigi Pardo, oltre che mio compagno di avventura, come libero pensatore. L'idea è questa: perché togliere l'imperfezione? Perché se la tecnologia aiuta, ma aiuta in un certo modo, allora possiamo anche metterci d'accordo. Se la tecnologia diventa un'ulteriore complicazione, peraltro deregolata, oppure regolata in maniera un tanto al chilo, allora non ci accordiamo più. Tiziano, ti ringrazio, a presto. Grazie a voi. Ciao Tiziano Pieri. Ciao. Pierluigi, tra poco parliamo invece di un altro bel tema, con gli ascoltatori, di quello che volete, 800 24 00 24. Oggi leggo che dai mondiali a 48 squadre il pareggio non esiste più e rimane il calcio PlayStation, il calcio al subbuteo e il calcio a biliardino. Tutti convocati. Tutti convocati. Noi siamo un po' maestri, noi italiani, agli accordi, perché purtroppo abbiamo questa fama, questa nomea. Però vedo che anche negli altri paesi l'erba più o meno è la stessa dei campi di gioco. Per questo motivo dico sempre: non bisogna mai fare di ogni erba un fascio, perché queste cose ci sono successe. Allora, i biscotti erano grandi, grandi. Io parto dal presupposto che abbiamo di fronte una squadra campione del mondo, campione d'Europa, che negli ultimi 10 anni ha divertito tutto il mondo con lo spettacolo, con il bel gioco, con la grande voglia di trasmettere entusiasmo a tutti. E tutti vogliono copiare questa squadra. E io penso che questa squadra pensi al biscotto. È davvero... Insupposo? Insupposo! Insupposo! Credo che siamo professionisti, giocando un europeo non credo che possa succedere una cosa simile, credo che loro faranno il suo lavoro, dobbiamo aspettare. Che buono signor Mugnaglio, ma come li fa? L'ho letto questi giorni, fino a quel momento non sapevo di questo biscotto, dipende come sono fatti, se sono dolci o amari. I nuovi biscottoni del Mulino Bianco, un mondo buono. Volevo invitare Antonio Banderas, ma abbiamo già Pierluigi Pardo come sex symbol. Ti ringrazio. Ma io e Antonio siamo molto simili come sì. Lineamenti, anche proprio come struttura fisica. Diciamo, lui è più un po' più anziano di me, e sì, quindi è chiaro, sì, che insomma io rimorchio un po' di più, vado per Pardo. Però, ragazzi, però non anche, tutti lui, possono essere sommato, Pardo. Anche lui, sì, insomma, anzi, approfitto per salutarlo, poi sì. Lo chiamerò per gli auguri di Natale, sì. Certo. Io invece saluto e ringrazio Gianni De Biasi, è molto meglio di Antonio Banderas. Ciao Carlo, ciao Pierluigi, un saluto a tutti. Allora, tu un giorno potresti... Partiamo dalla VAR, poi parliamo invece di un ipotetico e futuro mondiale in cui ci sarà magari la tua Albania o una tua nazionale a 48 squadre in cui se fai 0-0 vai ai rigori. Però prima, dimmi la tua... sull'argomento di apertura, e cioè su questa storia della televisione in campo che insomma che sta per, viene sperimentata per il mondiale per club, ma in fondo convince pochino. Allora, la goal line per me ok, goal line, perfetto. Togliamo. La VAR secondo me deve ancora essere sperimentata al meglio e deve essere sicuramente testata, perché l'arbitro non può andare al video come ho visto. Esatto. Come ho visto questa mattina nei vari passaggi, l'arbitro deve stare in mezzo al campo e dirige la partita. C'è chi gli suggerisce in cuffia o tramite un altro strumento che sarà nuovamente sull'orologio elettronico e gli verrà fuori qualcosa, però a me toglie quello che è un po' anche l'errore dell'arbitro, c'è sempre stato, poi c'è tutta la dietrologia sugli errori degli arbitri perché sono sempre in favore di e via discorrendo. Io credo che faccia parte di questo gioco e bisogna accettarne quelle che sono un po' le conseguenze. Io credo che quando tu dici gol o non gol, già lì hai stabilito una cosa, sì, chiara. Perfetto. Dall'altro punto di vista c'è tutta una serie di situazioni difficilmente interpretabili in tempi rapidi, e se togli la valutazione in tempi rapidi, io credo che si perda un po' quella che è l'essenza. Esattamente. In compenso c'è già mezzo Italia, forse di più, compreso Marcello Nicchi, infoiatissima, perché Nicchi dice: abbreviamo i tempi, quest'anno in Serie A almeno 4 casi potevano essere risolti grazie alla tecnologia, quindi facciamo presto perché la vogliamo dall'anno prossimo. Sì, ma per far presto bisogna istituire delle squadre di lavoro che sono degli arbitri, se non degli specialisti analisti video, che devono essere veloci nell'analizzare una situazione, ma come quella di questa notte che poi prende in esame il fuorigioco passivo, quello che rientra, ostacola il gol, il rigore, la trattenuta, sai, non è che la riesci a fare in una visione sola, devi essere un fenomeno per beccarla. No, puoi beccare... soprattutto devi regolamentare, devi semplificare fuori gioco, e siamo tutti d'accordo perché così è un casino, e devi cambiare un po' di cose, però, quindi però, rischia, Carlo, di essere un altro gioco. Dal fatto che si vuole avere sempre più spettacolo e più gol, e quindi una volta tutti oltre la linea erano in fuorigioco, oggi devi aspettare che la palla arrivi al giocatore che è in fuorigioco, quindi crei delle difficoltà enormi sugli assistenti, che sono secondo me veramente quelli più incredibilmente esposti, però al tempo stesso hanno anche dei numeri pazzeschi, perché sbagliano veramente. Ma infatti sono bravissimi, secondo me sono veramente. Ma i nostri specialmente sono bravissimi, i nostri italiani sono tra i più bravi in assoluto. Io ho la possibilità di vedere tante partite in giro e ti garantisco che i nostri sono tra i più bravi in assoluto. Sì, sì, sì, ma non faccio fatica a crederlo. Pierluigi Pardo, sai che nell'82 forse non avremmo vinto il mondiale, perché Italia-Polonia 0-0, Italia-Perù 1-1, Italia-Camerun 1-1. Si andava ai rigori. È la stessa cosa del Brasile, del Portogallo quest'anno, di Francia. Ha fatto i tre punti come noi. Ecco, vedi, questa cosa qui. Tre pareggi e noi una vittoria e due sconfitte. Io premierei chi ha vinto una volta. Dovrebbe Anch'io. Essere anche questo il discorso, certo, perché certo. Allora c'è la tendenza a vincere, se ti accontenti come hanno fatto loro poi nell'ultima partita contro l'Ungheria, dove il pareggio lì era una roba da non da biscotto, da torta. Quindi capisci? Dai, però loro sono diventati campioni europei. Sì, loro sono diventati campioni europei. Pardo, tu come lo vedresti un mondiale in cui cioè, 48 squadre già allargatissimo fin troppo? Gruppi da tre, il pareggio non vale più. Allora, questo non è più calcio. E poi mettici anche la VAR, questo è un altro sport, a mio parere. Sono d'accordo. No, ma il pareggio è il calcio. Pareggio è il calcio. Io sono assolutamente d'accordo sulla regola dei tre punti, nel senso che comunque credo che la regola dei tre punti sia stata, assieme ad altre cose, ad esempio il retropassaggio al portiere che non può più prenderla con le mani, il retropassaggio volontario, tutta una serie di accorgimenti che vanno nella direzione di aumentare lo spettacolo e la possibilità che succeda qualcosa, non me ne vogliono i difensori. Il pareggio secondo me però rimane un concetto sacro del calcio, se poi è anche una delle anomalie del calcio, perché questo indubbiamente è molto diverso dagli altri sport, no? Dal tennis, dalla pallavolo, dal basket, è anche della bellezza del calcio che possa esistere un pareggio. Quindi io francamente sono completamente contrario su questa roba qui. Bisogna trovare, non è facile, bisogna trovare un buon mix ovviamente fra la modernizzazione del gioco. Sì, va bene, ma non andare verso un altro sport, perché no, se elimini Gianni, da allenatore come la giochi una partita in cui non puoi pareggiare? Me lo spieghi? Sempre alla stessa maniera, cercando di non prendere gol e di farlo, cercando di rischiare il meno possibile, perché poi sei sotto, alla più disperata arrivi al pareggio e dopo che cosa succede? Te la rigiochi con la roulette dei calci di rigore. Mi sembra una cosa un po' strana, si potrebbe adoperare il format in maniera migliore, credo che chi però è preposto a farlo abbia fatto 1500 studi. È come lo sviluppo del campionato europeo a 24 squadre, si delinea su 4 giorni, in 4 giorni le partite, per cui tu che hai giocato la prima giornata e gli altri che giocano la seconda, la terza e la quarta hanno la possibilità di fare la corsa su di te, capisci che è un'anomalia, ma non si può fare diversamente, questo è l'aspetto incredibile, però tutti lo sanno che poi uno si fa la corsa su di te o, certo. o sugli altri ovviamente. No, posto che io non ho nulla contro la soluzione quando è il caso dei rigori, perché secondo me è un gesto tecnico comunque del calcio, non è il lancio di una monetina, quindi è calcio anche quello, però l'abolizione del pareggio, e qui sono d'accordo con Pierluigi, snaturerebbe questo sport, perché il calcio è fatto anche di pareggi meritati, immeritati, che valgono un punto, poi possiamo fare tutti i calcoli che vogliamo. C'è qualcuno che vorrebbe assegnare due punti se segni un gol o più gol. Però togliere il pareggio è contro la natura di questo gioco. La sensazione è che invece, a mio parere, servono delle riforme strutturali a partire dai calendari per arrivare ad una nuova formula della Champions League. Io da lì partirei piuttosto che dall'abolizione del pareggio. Non so cosa ne pensate voi, Gianni. Ma io sono d'accordo. Bisognerebbe cercare di studiare una nuova possibilità. È chiaro che, come nell'ultimo europeo, è la possibilità di vedere un'Islanda che diventa una squadra simpatica, che dà qualcosa di nuovo al calcio, e credo che dai la possibilità anche ai piccoli ogni tanto di partecipare. Io credo che questo sia un aspetto democratico, tra virgolette, al tempo stesso che dà delle nuove opzioni allo svolgimento del torneo. È chiaro che bisogna trovarne poi che questo sviluppo si collochi in uno spazio temporale molto ristretto, come accade. Pierluigi? Ma sì, bisogna, è esattamente questo il giusto mix, cioè servono sicuramente gli accorgimenti per rendere il calcio calcio moderno, secondo me non è l'allargamento a quarta squadra del mondiale, tanto per tornare al discorso di prima, non è aumentando la quantità di partite che si crea più enfasi, si aumenta semmai la durata di un torneo e magari lo si rende in questo senso più attraente dal punto di vista proprio commerciale, perché più partite significano ovviamente più ascolti, più soldi, più biglietti venduti, più merchandising e tutto il resto. Ma in generale, insomma, bisogna stare attenti. Il calcio va maneggiato con cura. Il calcio è uno sport, da questo punto di vista, unico, nel senso che è chiaramente il fenomeno forse più importante al mondo, non soltanto sportivo, ma veramente di culturale, di cultura pop che esiste al mondo. E proprio per questo va maneggiato con cura. Cioè, da un lato è ovvio che uno ha voglia di fare di renderlo moderno, di sfruttarlo, di darlo per la giacchetta, eccetera. Però bisogna stare molto attenti alla tradizione, perché la tradizione è qualcosa che è implicita. E allora la finale di Champions, la formula di Champions, così ci piace tanto, perché è la Champions. Cioè, se fosse, capito, la Mitropa Cup, non ci piacerebbe così tanto, secondo me. Quindi bisogna trovare un giusto equilibrio, e non è snaturando le regole, secondo me, in maniera così violenta, cavolo, che si risolve. Esatto. Sì, però dimmi Gianni. No, capisco il punto di vista di Perluigi, che assomiglia molto al mio, ma il problema di fondo nasce dal fatto che i tempi sono ristretti, i calendari sono intensi per quasi tutte le... Scusa, ma tu non preferiresti giocare come propose un giorno Platini in una cosa molto saggia che disse, non preferiresti giocare le partite della tua nazionale fuori dai calendari in un mese dedicato esclusivamente alle nazionali? Sì, forse sì, perché hai più possibilità di lavorare, di avere la possibilità di programmarti meglio e di avere magari i giocatori a disposizione e poter fare delle cose, però io sono anche uno di quelli che cerca di prendere quello che la realtà del momento ti passa, quindi è inutile piangersi addosso, bisogna cercare di ottimizzare i tempi che uno ha e deve cercare di andare dietro a quello che è l'andamento del momento. Poi se l'innovazione ci porterà delle cose che ci danno maggiori garanzie, maggiori spettacolo, maggiori possibilità che il torneo diventi sempre più interessante, uno è aperto a tutte le innovazioni. Certo. È chiaro che devono essere innovazioni che portano qualcosa di buono e non di confusionario. Certo. Grazie Gianni, buon lavoro. Grazie a voi. Alla prossima, grazie Gianni De Biasi. Ci fermiamo per la borsa, torniamo subito. Tutti convocati. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15.30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta... Noi rubiamo qualche minuto al presidente, non solo del Torino ma di RCS, Urbano Cairo, che saluto. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno, e che ieri sera è stato il padrone di casa per la prima volta nella notte delle stelle che sono state assegnate agli awards della Gazzetta. Emozione quanta? Domanda banale. Beh, sì, è stata una bellissima serata. Tra l'altro domani sera andrà in onda sulla 7, sì. Dopo Crozza, quindi sarà una bella cosa, un bel programma televisivo. È stata una bellissima serata e poi veramente c'erano veramente degli atleti straordinari, dalla Pellegrini alla Cagnotto a Paltrinieri, e poi i calciatori, Donnarumma, il grande Donnarumma. Insomma, veramente molto... serata bellissima. Presidente, bellissima, noi abbiamo sempre parlato di calcio, di Torino e dintorni, ma quanto agli altri sport, qual è il suo preferito? Ma io diciamo che sicuramente... E magari il suo campione preferito? Sì. Beh, allora, per quanto riguarda il ciclismo, il mio sport, il ciclismo era uno sport che ho seguito tantissimo, che seguo, il mio campione di quando ero bambino era Gimondi. Ero tifoso di Gimondi e poi dopo, diciamo più avanti, chiaramente Pantani mi ha di nuovo avvicinato molto al ciclismo, e poi adesso Nibali, sicuramente Nibali è un grande, grandissimo, ha fatto benissimo in questi anni, Tour, il Giro d'Italia, poi per il Monte che ha fatto, eccellente. E poi comunque a me piacciono un po' tutti gli sport, la pallacanestro, la pallavolo, li seguo, non li seguo magari con la costanza con la quale seguo il calcio, però certamente tutti gli altri. Certamente le Olimpiadi, ecco, quando ci sono le Olimpiadi, e comunque sia grandi momenti di atletica mondiali, eccetera, o grandi kermesse, quelle sicuramente mi piacciono moltissimo. Io poi da ragazzino facevo, ero velocista, facevo gli 80 e i 100 metri, per cui mi piace molto, li ha attraversati tutti. Pardo, ci aspettiamo un grande Giro d'Italia quest'anno. Ce l'aspettiamo. Diciamo che il 2016 è stato l'anno di Cairo, la ciliegina poteva arrivare domenica scorsa. Che cosa è mancato, Presidente? Ma no, ma direi che non è che sia mancato, è mancato il risultato intanto, perché effettivamente sì, certo, abbiamo giocato alla pari per 83 minuti, ma non basta, insomma, diciamo che a me non queste consolazioni, anche se poi abbiamo dato l'animo, abbiamo fatto benissimo per certi versi, eccetera, però poi insomma sono partite dove i minuti finali sono fondamentali, lo si è visto, non a caso il Torino, visto che saremo addirittura primi in classifica dopo il primo tempo, però purtroppo c'è anche il secondo e quindi dobbiamo lavorare, visto che siamo in epoca di trasformazioni tra VAR, il pareggio ai mondiali che forse non esisterà più, proponiamo anche un campionato a 45 minuti. Noi stiamo lavorando sui secondi tempi e sicuramente anche lì faremo meglio nei secondi tempi, però insomma il fatto che già nei primi siamo primi in classifica già un primato non male. Dobbiamo cercare di migliorare i secondi. I secondi tempi sicuramente sono importanti. La mia sensazione è ovviamente la partita dell'altro giorno, insomma, il Torino la poteva pareggiare, la poteva anche vincere, perché insomma il pallone di là ci è uscito di pochi centimetri, però è che questa squadra ha enormi qualità quando devi incorrere il proprio gioco, come spirito, come aggressività, forse dove può ancora migliorare sono anche tanti ragazzi giovani e nella gestione della partita, nel senso che quando il Toro è passato in vantaggio con la Juve, lì la grande squadra, la squadra completamente matura, completamente compiuta, riesce subito a risistemarsi con un atteggiamento un po' più difensivo, magari lascia sfogare di più gli avversari. Invece anche sull'1-0 ha continuato ad essere una bellissima partita con occasione da una parte e dall'altra. È questa la sensazione, cioè la condivide questa sensazione, Presidente? Ma sì, diciamo che il credo calcistico di Mihajlovic è quello di essere piuttosto, come dire, arrembanti e di cercare di vincere, quindi magari di fare anche il secondo gol. Io credo che sia un credo giusto, perché è giusto, diciamo, non fermarsi. Poi è chiaro, devi stare attento quando, come dire, questo lo puoi fare magari con alcune squadre, magari con altre meno, perché comunque sia quando sei con la Juve devi anche magari cercare di avere una gestione della partita, però poi insomma sono cose che, diciamo, se sposi una mentalità, se cominci a ragionare con una mentalità più, diciamo, di attacco, poi diventa più difficile in qualche modo calibrarsi e centellinarsi, no? Però credo che anche qui è un processo, diciamo, di maturità. Noi, diciamo, oggi stiamo seguendo una strada che è quella di attaccare e di cercare di vincere le partite tutte, e poi non sempre si riesce, ma insomma certamente quello è la mentalità. Domani magari, quando questa cosa viene totalmente interiorizzata, uno può anche cominciare a fare qualche distinguo, dove poi c'è il momento in cui fai anche, come dire, un po' di calcoli in più e gestisci magari la partita diversamente. Però secondo me una cosa per volta, credo che sia importante. Già questa mentalità mi sembra Press, è stato criticato Mihajlovic per quei tre cambi, non mi sembra che lei sia stato tra i critici, nonostante lei stia dicendo un passo per volta, poi impareremo anche a gestire le partite. Ma no, ma io poi non, diciamo che in quel momento se l'è sentita così e certamente l'ha fatto, e poi purtroppo non, non è stato fortunato, non si è stati fortunati perché abbiamo preso gol prima ancora che i tre campi potessero lavorare bene o male. Certo, sicuramente poi abbiamo concesso un po', perché a base del gol preso poi la Juve si è fatta un pochino più pericolosa, quindi insomma sono cose, io non preferisco fare il presidente e non il tecnico. Il tecnico, abbiamo un bravo tecnico che è Mihajlovic, quindi non mi fa piacere di fare il distinguo. Lui l'ha sentita così, l'ha fatta, e è comunque un uomo che ha delle grandi capacità anche di ragionare su quel che fa e anche magari di correggere le cose lievemente, se è il caso di correggerle, però insomma credo che siano cose che matura lui da solo, io non è che devo dirgli nulla. È una caratteristica assoluta e indiscutibile del presidente Cairo, nel senso che pur essendo appassionato di calcio, però non abbiamo mai sentito nel tempo una, diciamo, un'intrusione nel lavoro del tecnico da questo punto di vista. Però sappiamo che Cairo, anche come punto di riferimento per Berlusconi nella sua crescita ovviamente imprenditoriale, no? Penso che sia nel pantheon delle persone che lei stima e alle quali in qualche modo si è ispirato. Volevo sapere che idea si è fatto di questa cordata cinese, se lo immagina un Milan cinese, adesso sono arrivati 200 milioni. Insomma, la caparra sta prendendo forma e tutto dunque sembrerebbe andare in quella direzione. Cioè, beh, credo che insomma quando uno incomincia a investire 200 milioni non credo che poi ci ripensi, no? Appunto. E se ci ripensa, alla peggio uno si tiene 200. Appunto. Non è neanche male. Credo che si siano spinti abbastanza avanti con i 200 milioni, credo che sia un terzo del prezzo alla fine, considerando anche il debito, per cui credo che non sia poco, però insomma non sono informato delle cose del Milan a questo livello, per cui non so, però insomma vediamo, stiamo a vedere. Tanto si informa sul Napoli prossimo avversario, ha sentito De Laurentiis? Il suo amico De Laurentiis? Domenica ce l'avete guarda, ti dirò, l'ho sentito ieri perché mi chiedeva diciamo di perché dice, ma come l'unica troupe che non c'è alla conferenza stampa è la Secchia, ma come mai? No, aspetta, te la facciamo avere, perché c'era questo film di Natale cui lui tiene moltissimo, allora mi ha chiamato per questo, ho detto no, ci mancherebbe, adesso chiamo subito e ti provvediamo subito, quindi l'ho sentito per questo, ma no, non abbiamo parlato di calcio, quindi abbiamo parlato di troupe televisive, non di altro. Va bene, avrete modo domenica. C'è Napoli-Torino, c'è Napoli-Torino. Certamente, altro che infatti. Va bene, sì, presidente, sì. Senta, io la ringrazio. Dopo aver premiato la pellegrinica juventina, il portiere del Milan, eccetera, alla prossima sarà a caso di premiare qualche granata alla prossima notte delle stelle. E ma qui è tutto è fatto nella regolarità più totale, per cui se non è stato premiato nessuno è perché evidentemente in questa occasione è andata così, però poi vediamo, insomma, vediamo il prossimo anno, vediamo che succede, io però non intervengo ovviamente perché mi sembra il minimo da non fare, no? Grazie presidente, grazie a voi, grazie, sempre un piacere, grazie, buon lavoro, Cairo. Grazie. Allora adesso andiamo saluto Carlo, che devo andare a risolvere una questione veloce. Sì, tranquillo, ti abbraccio anch'io. E da andare a spostare la macchina che è in doppia fila. C'è da spostare una. È un diesel? No? sì, ma sei a Roma c'è il blocco del traffico. Ciao Pierino. Ciao, traffico. Tutti convocati. Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo. Vi presenta. Convocati. Siete sempre tutti convocati all'800240024 ogni giorno. Io saluto e ringrazio Mirko Graziano, è un po' che non ci sentiamo. Questo non è bello. Non è bello. È un po' che non ci sentiamo e questo non è bello. Senti, posso partire? Allora, partiamo da qui. Ieri abbiamo scherzato un po', abbiamo giocato un po' con i grandi bidoni della storia del calcio italiano, quantomeno degli ultimi 40 anni. Qual è stato il peggior affare che hai fatto al fantacalcio? Pardo ha venduto, Totti ha preso Caccia, e tu? Dai, io non sono un grande giocatore di fantacalcio, però ricordo con piacere invece un colpaccio che feci grazie a un mio amico argentino. Sì? Che mi disse tanti anni fa, quindi ti renderai conto anche di quanti anni sono passati, di prendere un certo Camoranesi, che era molto bravo. L'ho presi a uno. L'hai preso a uno? Appena arrivato in Italia, ai tempi del Verona, mi pare. Sì, Verona. Verona. E mi disse, prendi questo Camoranesi che è molto bravo, e mi fidai, è un buon affare. Sì, meno male che non hai preso, che ne so, Rambert, l'avionsito, che arrivò insieme a Zanetti. In realtà posso raccontarti invece un botta di sfortuna. Noi in Gazzetta facevamo il fantacalcio che poi durava negli anni, no? Quindi conservavi 11-12 giocatori ogni anno e quindi potevi cercare di costruire una squadra nelle varie stagioni. E io riuscii a un certo punto ad avere in squadra sia Pippo Inzaghi sia Ronaldo. Beh, quell'anno si infortunarono tutti e due e finì il campionato con Amauri centravanti. Che sfiga però, Mirko, che botta di sfiga. Senti, Gabigol dove lo mettiamo? Sentiamo dove lo metterebbe Pioli. Credo che Gabigol sia un ragazzo di talento, sicuramente. No, credo che stia cercando, lo so dove vuoi arrivare. Credo che stia cercando, sta facendo degli sforzi per cercare di capire la nuova mentalità, la nuova abitudine, il nuovo metodo di lavoro. E credo che debba avere la pazienza giusta, perché con le qualità che ha troverà sicuramente spazio e sicuramente potrà crescere insieme a noi. A me attualmente sembra un gran talento da spiaggia Gabigol, cioè almeno avendolo visto giocare alle Olimpiadi, lo conosco poco, però alle Olimpiadi mi ha dato l'idea di un gran talento da Copacabana. Anche a me non aveva impressionato moltissimo, aspettiamo di vederlo in campo. È anche vero che dopo 6 mesi non vedere neanche per qualche partita in campo un giocatore sono qualcosa. Direi che quei 30 milioni in questo momento sono una spina nel fianco dell'Inter. Sì, sono troppi. Aggiungiamo anche quelli di Condombia e prendiamo Higuain e festa finita. Non Higuain perché... Ma guarda, Condombia è stato pagato molto, no? Però arrivo a dirti che si poteva anche cercare di provare a fare un investimento su un ragazzo così giovane che aveva fatto vedere cose molto buone col Monaco. Io a quei tempi seguivo la Juventus e lo avevo visto nel quarto di finale di Coppa dei Campioni contro la Juventus e fece a tutti una buonissima impressione, non da giustificare 35 milioni di investimento, ma comunque un 25 milioni li avrebbe spesi chiunque. Quindi quello è, magari sai, ci sono quei giocatori che fanno fatica ad adattarsi a un certo tipo di ambiente, di calcio, e poi magari li ritrovi in altri campionati molto più forti e molto più decisivi. Per quanto riguarda invece appunto Gabigol, insomma, la cosa è particolare, sono stati di 30 milioni per un talento comunque di 20 anni, non di 12 anni, certo. E lo abbiamo visto per pochi minuti. Certo. Senti, rispondiamo insieme a un paio di ascoltatori, Alessandro e Lorenzo. Alessandro, buongiorno. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti quanti. Dica. Io ero intervenuto uno per via della movida in campo, che sono perfettamente d'accordo con voi che rischia di far diventare questo sport tutt'altro. Veramente in modo impressionante. Mi immagino gente che sta lì davanti al video a guardare per minuti e minuti se è un fallo, non è un fallo, qualcosa del genere, con partite che durano tipo un'ora. Certo, poi a quel punto arriverà quello, ma è già arrivato, sono già arrivati i messaggi, quello che vorrebbe il tempo effettivo, quello che dice assegniamo un punto a chi segna in caso di pareggio, insomma. Poi arrivano i parrucconi che dicono mondiale a 48 e il pareggio non esiste più, allora non è più pallone, secondo me, Mirko. Sì, io sono d'accordo con te, io sono per il gol non gol, perché quello è un... Credo che non ci sia nessuno contrario al gol non gol. Bravissimo, e al massimo se proprio non si riesce a trovare un punto, al massimo una sola chiamata a partire. A livello di moviola, in maniera tale che chi ha fatto la sceneggiata non deve poter chiamare la moviola in qualsiasi momento. Sarà lui stesso il primo a dire no, guarda che mi sono buttato. Ecco, al massimo una chiamata sulla partita. Per il resto io sono d'accordo con te, non è più il calcio, cioè diventa qualcos'altro. Esatto, c'è chi gioca alla PlayStation, io propongo calcio balilo, subbuteo, data l'età. Lorenzo Firenze, buongiorno. Sì, ciao. No, non so se aggiungo niente alla discussione perché non vi ho ascoltato nell'ultima mezz'ora. Però io ho giocato a calcio nei dilettanti per anni, per cui mi sento competente quando vedo una moviola capire se è fallo o non fallo. Effettivamente ci sono delle situazioni dove è difficile anche con la moviola capire se è un fallo da rigore piuttosto che no. Per cui lascia il tempo che trova la moviola per certi episodi. Cioè, va bene appunto per cose... definitive, cioè che guardando si capisce, ma un fallo non sempre si capisce neanche neanche riguardandolo più volte. Sì, ma poi si creerà, cioè il solito discorso per cui crei un calcio a due velocità, no Mirko? Per cui sì, no, da una parte c'è, dall'altra non c'è. Si rischia di finire per discutere anche la stessa decisione della moviola. Ma come in atto, perché gli stessi moviolisti non sono mica d'accordo, esatto, su Terry in fuorigioco, esatto, poi è tornato, bravo, e quindi... Avremo una moviola al quadrato, allora io sono per le cose di campo, quelle troppo importanti come il gol non gol, sì, benissimo, ma si è già raggiunto un buon punto, no? con questa nuova tecnologia, quindi qua si riesce a intervenire in pochissimi secondi. E se proprio vogliamo inserire a tutti i costi la moviola per cose eclatanti, ecco, al massimo una chiamata a partita. Una chiamata a partita, sì, in maniera totalmente regolamentata, che non sia qualcosa del tipo che stiamo vedendo ora in questo torneo, in questo mondiale per club. Grazie Mirko, alla prossima, sentiamoci presto. Ti abbraccio. Grazie Mirko Graziano. Ci fermiamo per il GR, poi torniamo su tutti questi temi e molti altri, tutti quelli che volete voi. 800 24 00 24, numero verde, vi aspetto. Tutti convocati. Usain Bolt si mette in scia, attenzione che spinge fino in fondo, ha il record del mondo! Garozzo è centro, la stoccata, la conferma, la stoccata, Daniele Garozzo è campione olimpico. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I miti, le verità, le leggende e i segreti dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetta Olimpia, ogni domenica alle 20:30, naturalmente qui, su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Tutti convocati. Seconda parte di Tutti convocati. Raffaele Lorenzo, buongiorno Raffaele. Buongiorno. Dica. Senta, no, niente, sento parlare molto di Donnarumma come un extraterrestre, un portiere che veramente anche la nazionale, la Juve, si sta facendo un pensierino. Ma poi guardando la classifica dei gol subiti, mi sembra che fra le 10 ha subito più gol lui di tutte le squadre nei primi 5-6 posti, non lo so. Beh, questo dipende... Da lui, ma non solo. No, ma guardi che gioca col Milan, non col Crotone. No, lo so che gioca con il Milan. Ma non ho capito, ma non è che questo qui, forse facendo queste uscite un po', non dico scenografiche, no? Sì. Si è creato questa immagine da gran portiere, ma poi effettivamente l'ultimo gol che ha subito mi sembra che sia stato... banalissimo, cioè proprio lo parlavo anch'io quello, non lo so, a me non sembra un sopravvalutato, a me sembra piuttosto un predestinato, è un ragazzo, ripeto, classe 99, ha dei margini di crescita enormi, però che sorprendono sono il talento e la personalità, poiché commette degli errori, ci sta anche, d'altra parte gli errori li commette anche Buffon. Faccio sentire invece che cosa ha detto Galliani a proposito di Donnarumma e di una eventuale cessione di questo portiere. Con Raiola è chiaro, Raiola è il discorso che fa sempre, che ha fatto i giornali, che ha rifatto anche a me oggi, che è quello che vuole sapere quali sono le ambizioni, quale sarà il futuro del Milan, chi sono i proprietari, eccetera. Sembra abbastanza normale, quindi c'è assolutamente un legame buonissimo, oltre che con Gigio anche con Raiola, che secondo me legittimamente si chiede, vuole vedere in faccia, insomma, un bel giorno chi sono questi proprietari e quel momento fare la trattativa. Quindi tutto vuole aspettare il closing anche lui. Vuole aspettare il closing, assolutamente sì. Quindi tutti aspettano il closing, Grana l'ha compreso. Loreno, buongiorno. Buongiorno, guardi, io non vorrei suscitare ilarità, tra l'altro proprio è una cosa che disse Galliani per quanto riguarda la spettacolarizzazione del gioco del calcio. Adesso però le volevo chiedere, il sistema che disse, che mi permette di aspettare un attimo nel Carlo, era che intanto si avrebbero molti più tiri in porta, secondo la tecnologia per farlo è minima. E è l'idea che appena la sentì dissi: ma sta scherzando? Era quella di allargare leggermente le porte. Non vorrei. Ha capito cosa intendo? Sì, sì, no, ma c'è anche Eccleston che ha proposto di allagare i circuiti di Formula 1 per rendere la Formula 1 più spettacolare. Di proposte ce ne possono essere 100.000, dal tempo effettivo alla riduzione del numero dei giocatori, oppure al giocare con il super tele, ve lo ricordate, quel pallone che svolazzava di qua e di là? Leo Turrini, buongiorno. Buongiorno maestro, come andiamo? Cosa ne pensi? Allarghiamo le porte, usiamo la VAR, aboliamo il pareggio, usiamo il super tele giallo. Cosa ne pensi? Ma guarda, sull'abolizione del pareggio, no? Come adesso se ne parla. Gli americani 40 anni fa, non se lo ricorda nessuno, ma quando Pelé, Chinaglia, Beckenbauer tentarono quei famosi Cosmos di sì. New York di lanciare il calcio in Nord America, si resero subito conto che nella mentalità, diciamo, statunitense il pareggio era qualcosa che non esisteva, e quindi inventarono i shootout, cioè se la partita finiva 1-1, 0-0, 2-2, bisognava fare gol con tiri da lontano e tutto il resto. Ora io vorrei che venisse introdotta questa regola in Formula 1, non allagando le piste, no? Ma siccome vince sempre la Mercedes, però alla fine facciamo primo, secondo, terzo e quarto, li rimettiamo lì, fanno come i rigori, hai capito? Tipo una partita e lì si decide chi ha vinto, e magari la volta buona è che Vettel o Raikkonen con la Ferrari, invece di fermarsi sulla Pero Cormano, portano a casa un successo parziale. Tra l'altro, caro Gente, io vorrei chiederti una cosa. Dimmela. Io lunedì sono con tutta la stampa, eccetera, pranzo con Sergio Marchionne. Che domanda vorresti che io ponessi al successore di Montezemolo? Ecco, vediamo se hai il coraggio di fronte alle orecchie di milioni di radioascoltatori di Radio 24 di proporre un quesito stimolante, intelligente, provocatorio. Perché tu non mi voglia far chiedere a Marchionne come mai la Boschi è ancora al governo? Perché su queste domande noi non partecipiamo, non rispondiamo. Quindi dimmi, che domanda devo fare a Sergio Conceição Marchionne? No, da 1 a 10 quanto si è pentito del pronostico che ha fatto e quanto gli si è ritorto contro. Ma qui puoi infierire la spada nella roccia, neanche della ferita, ho capito. Beh, quello però devo dirti che Sergione Conceição Marchionne, fermo sulla Pero Cormano con una multipla metano, rimasta senza carburante, si è già scusato, ha detto un mese e mezzo fa, ho preso una smusata, insomma, ho creduto troppo a quello che mi veniva raccontato, peccato di ottimismo, insomma, non è una domanda alla gente, di solito è molto più bravo, fa domande molto più puntute, va bene, va bene. Cosa gli vuoi chiedere? Non lo so, io devo andare lì, io adesso volevo il tuo aiuto, hai capito? Io ad esempio vorrei chiedere a Marchionne invece, ma non si è pentito di aver voluto a tutti i costi la poltronissima del presidente che azionava il ciuffo come un tergicristallo, alias Luca Cordero di Montezemolo? Cioè, chi gliel'ha fatto fare? Perché poi alla fine sempre lì ci ritroviamo, vince sempre la Mercedes. Sì, infatti. Non, questa è la domanda che io farò a Marchionne, hai capito? Altro che VAR, rigori elettronici e tutte queste cose, insomma, no, mondiali senza la X, senza il segno X in schedina, il segno X sta invece sul seggiolino della Mercedes. Questo, guarda, loro hanno fatto sapere che comunque prima del 3 gennaio non ci faranno conoscere l'identità del successore di Rosberg. Secondo me lo fanno anche perché in questo modo danno sui social, i giornali, Radio 24, Sky, di fare un sacco di panna montata. Modo di parlare, perché abbiamo avuto recentissimamente una riproposizione della famosa favola La Volpe e l'Uva, no? Hai sentito Alonso? Alonso, come la volpe, no? La volpe tentava nella famosa favola di aggrapparsi a un grappolo d'uva, non riusciva a saltare abbastanza in alto e poi si consolava dicendo tanto non era matura, no? E Alonso, che avrebbe pagato di tasca sua per andare in Mercedes, però non lo prendono, ha detto: ah no, ma il vero sogno della mia vita è vincere un mondiale con la Mercedes, con la McLaren Honda. Quindi insomma, la volpe e l'uva. Io credo che insomma a questo punto ci siano solo due opzioni per quanto riguarda le frecce d'argento. Una è quella di cui si parla sin dall'inizio, è questo ragazzo che hanno allevato in famiglia, che non è nemmeno male, devo dirti, che si chiama Wehrlein, che è un tedesco che ha guidato la Manor, insomma pare disponga di un certo talento e sarebbe l'ipotesi insomma casalinga, no, domestica. Sì. E l'altra è quella di questo pallido slavato finlandese che non è il mio idolo Raikkonen, ma bensì Valterino Bottas, che qualcuno avrebbe addirittura voluto in Ferrari, che ha il pregio di avere come manager il capo della Mercedes da Formula 1, Toto Wolff. Secondo me alla fine della fiera, salvo sorprese, perché insomma con Alonso, dopo le dichiarazioni che ha fatto Fernando, mi pare che il discorso sia chiuso. Sì. È vero che ieri Ecclestone, che alla mia età, quindi è lucidissimo, ha detto: ma però insomma no, devono prendere uno forte con Hamilton, se no c'è il rischio che Hamilton vinca 21 Gran Premi su 21. Sì. Ecco, questa è una domanda da fare a Marchionne lunedì. Ma vedrai che una soluzione la trova, gli sgonfia le gomme. Però voglio dire, gli mette il sale nel serbatoio. A nome di Carlo Gente, che è il più grande conduttore radiofonico della storia d'Italia, dopo Nunzio Filogamo, cari amici vicini, lontani, eccetera. Lunedì bisogna chiedere a Marchionne: ma lei cosa pensa del fatto che Ecclestone ha detto che Hamilton l'anno prossimo potrebbe vincere tutti i Gran Premi doppiando sempre l'intera concorrenza? Questa è la domanda, quindi mi sto anche strafogando, perché a questo siamo arrivati, cioè ci chiediamo se sia possibile che l'anno prossimo Hamilton doppi tutte le corse. Insomma, siamo messi così, caro Gente, cosa vuoi che ti dica? Sì, gli faremo un campionato a parte, lo manderemo a correre, gli costruiremo una pista. No, tu sai che c'era quel precedente, Alfredo Binda, no? Scusa, io c'ero già un occhio, io parlo da contemporaneo di Alfredo Binda, che vinceva sempre i Giri d'Italia in bicicletta, e a un certo punto la Gazzetta dello Sport disse: senti Binda, il premio per la vittoria te lo diamo già, basta che non corri, te lo diamo prima più un'aggiunta, ti diamo anche Y, però tu stai a casa perché sennò il Giro d'Italia non interessa più a nessuno. Ecco, più o meno da quello che dice Ecclestone il rischio è questo, e di questo io parlerò a nome tuo con Sergio Marchionne lunedì. Va bene, perfetto, perfetto. Se vuoi poi mi chiami dopo le 15. Poi ti chiamo dopo le 15 e tu mi dici quali sono state. Il telefono, se siamo ancora lì, dico: caro Sergio, ma c'è Gente, Radio 24, potresti fare anche uno scoop, caro Gente. Ma certo che lo facciamo, Leo, rimaniamo d'accordo così, però non dirglielo, facciamogli la sorpresona. Senti. No, non glielo dico, quando tu fai squillare il telefono. Io vado a squillare il telefono, pronto che parla? Dico, no, però devo dire la verità, dico: guardi, questo è Luca Cordero Montezemolo dei conduttori radiofonici. A quel punto c'è il rischio che lui butti giù la linea, ma mi distrugga il cellulare. Butti no, giù te. Siamo Gente coraggiosa, il nome di Gente, e faremo anche questo tentativo. Ascolta Leo, ieri abbiamo fatto il gioco dei bidoni del calcio. Che insomma io sono partito per la mia memoria dalla riapertura delle frontiere, e ovviamente mi è tornato in mente Luis Silvio della Pistoiese, il fortunato del Perugia. Luis Silvio che non si è ancora capito se ha un chiosco di bibite fuori dello stadio di Pistoia o se fa il camionista. Questo è qualcosa che non abbiamo ancora appurato. Ma l'importante è che sia ancora piede libero. Sì, pare che sia ancora piede libero. Pare che sia ancora piede libero. Dove lo metti Gabigol? Beh, allora Gabigol non ho capito, perché l'ho visto solo 16 minuti contro il Bologna, ma vorrei partecipare anch'io a questo gioco. Sì. E vorrei suggerire un autorevolissimo candidato, Vampiro Vampeta. Vampiro Vampeta. Siamo in materia Inter. Sì, e viene acquistato nell'estate del 2000, l'Inter è allenata da un certo Marcello Lippi, quindi insomma non il primo che passava per strada, e arriva l'Inter Vampiro Vampeta. Vampiro Vampeta gioca solo manciate di minuti, tipo Gabigol, facendo figuracce inenarrabili, e viene prontamente rispedito con un vagone piombato alla volta del Sud America. Ma attenzione, perché poi la storia si vendica. Nel 2002, mondiale nippo-coreano, la Salsao di Filippo Scolari con Ronaldo, grandissimo spolvero, Ronaldinho, Rosvaldo, Roberto Carlos, se volete vi do la formazione, vince il titolo battendo in finale la Germania di Rudi Völler 2-0. E chi c'è nei 23 campioni del mondo? Il Brasile, me lo dica, Vampiro Vampeta, che giocò una manciata di minuti, non so se contro la Corea o la Turchia, quindi Vampiro Vampeta è un campione del mondo. Per cui quando poi si dice, ah, i bidoni, io li ho messi anche alla mia mostra di figurine a Modena, l'isola dei bidoni, eccetera, i migliori album della nostra vita, attenzione, perché poi i bidoni si riscattano in maniera sorprendente. Beh, c'è anche chi non si è riscattato dall'Avion City, per rimanere all'Inter, da Altone, sì, nell'Avion City, Rambert, sono i primi che mi vengono in mente. Sull'Inter tu mi insegni che più che l'isola dei bidoni, l'Inter è un intero arcipelago. Io ti potrei citare Caio, chi si ricorda? Tizio e Caio lo ricordo, Caio Ribeiro. Deve essere la versione sudamericana di Van Basten, una roba improponibile, ma poi posso andare avanti, potrei citare Macellari, che adesso è un bravissimo commentatore televisivo, Pistone, che non era un pezzo della Ferrari di Raikkonen e Vettel, ma fu preferito Roberto Carlos come terzino. Vuoi che vada avanti? No, basta così. Basta. Posso riempire la trasmissione basta con così. Delle citazioni, altro che Gabigol. Gabigol è solo l'ultimo arrivato, insomma. Sì, è ma, che poi magari, ma che poi magari diventerà anche bravo, chi lo sa. Ma per adesso ho detto, prima ho detto che mi sembra un gran giocatore da Copacabana. Tra due anni Gabigol gioca nella Juventus e contribuirà finalmente al trionfo bianconero in Champions. Ti ho fatto questa profezia prenatalizia, vedrai. Lascia tempo al tempo, caro gente. Però non ho mai detto che domanda devo fare a Marchione lunedì, ho capito? No, gliela facciamo insieme in diretta. Dai, un potente, tu subito te la fai. Senti, io ti chiamo lunedì quando sarò lunedì, io a fare domanda a fare, perché vedo che non sei partecipativo, non collaboro. Vabbè. Vediamo lunedì. Mi sembri Verdini col governo Gentiloni, ci siamo fuori, capito? Non questo non è bello da parte tua, ti sei fermato con Verdini sulla vera formata. È che è stata talmente deprimente la stagione della Ferrari che mi sembra di sparare sulla croce rossa, molto rossa in questo caso. Dillo a me, caro Geno. Ciao Leo. Ciao, a presto, maestro, bene. Un abbraccio. Ciao. Allora, dalle lucubrazioni di Leo Turrini, che ovviamente chiameremo lunedì quando sarà impegnato con Sergio Marchionne in questo pranzo ufficiale natalizio, immagino, per passare al campionato inglese, che a Natale non si ferma, che era vissuto un'altra giornata estremamente importante con il Chelsea, che nel segno di ragazzi, poi lo so che lo dite, di Fabregas, ha segnato lui il gol dello 0-1. Ieri l'ho definito, c'è un ascoltatore che ha detto vorrei Fabregas al Milan, ha detto ma a me sembra che stia sul carrello dei bolliti, bam, segna Fabregas. Ciao Paolo Ciarravano. Ciao a tutti. No, non è ancora su quel carrello, evidentemente. Non c'è neanche Ibrahimovic. Un giocatore no, su quello credo ci fossero ancora meno dubbi. Io credo che Fabregas potrebbe essere un giocatore in grado di fare la differenza in questo momento in Italia, perché secondo me è quel tipo di giocatore che da noi non c'è. Non dico che sia una sorta di Pirlo, ma qualcosa forse di molto simile alla sua solennità calcistica, che ora non c'è più, però mi sembra un tipo di giocatore che da noi potrebbe ancora fare la differenza. Poi alla fine è un 87, ma io credo che per il momento Conte non lo molli tanto facilmente. Senti, per te che lo racconti ogni settimana per Sky, si rischia l'italianizzazione del campionato inglese con Conte in fuga sui pedali? Beh, sarebbe il secondo italiano consecutivo a vincere la Premier. Sì. Però diciamo questo, che il campionato inglese non era già italianizzato, potrebbe diventarlo, ma di certo era sicuramente già un campionato deinglesizzato da alcuni anni. Il bello della Premier forse è che è una sorta di NBA anche dal punto di vista tattico, non a caso abbiamo parlato di campionato del mondo degli allenatori, siccome le nostre eccellenze in questo momento sono lì, non mi stupisco che poi possano vincere, però è già un campionato molto poco inglese dal punto di vista tattico. Lo è secondo me nelle atmosfere e nello spirito. Per esempio la partita tra Everton e Arsenal secondo me è stata molto inglese, e molto inglese è stato soprattutto l'Everton, pur avendo un allenatore olandese. Di certo Conte ieri ha dimostrato che bisogna essere in grado di attaccare, ma con giudizio, alla fine ha sofferto, alla fine è passato a giocare con una sorta di 3-5-2, ha aggiunto un centrocampista in più, cosa che ormai fai non ridire spesso a altre latitudini, ma se tu hai attaccato, hai dominato, hai sprecato e non hai raddoppiato, secondo me ci può stare. Poi è chiaro che se in porta un fenomeno come Courtois, poi i tre punti li porta a casa, perché a 93esimo certo, fa una parata certo. assolutamente fuori dal mondo. Però l'italianizzazione in quel senso c'è, ma non per, per fare solo i complimenti a Conte, ma è davvero solo il lato migliore dell'essere italiani nell'allenare, quello che si è visto secondo me anche ieri nella gestione del vantaggio minimo. Si può vincere 1-0 e non è reato. Sì, fa impressione notare quanto siano lontani da Conte gli altri geni della panchina, da Guardiola, per non parlare di Mourinho. Secondo me loro hanno quest'anno una situazione abbastanza anomala, per cui due allenatori molto bravi come Conte e Klopp non hanno le coppe. Per questo hanno temuto questi due outsider. Ora uno di questi due si è trasformato nella lepre del campionato, cioè Conte. Io credo che Guardiola i problemi che ha avuto li abbia avuti molto perché indotti dalla Champions League. Ha dovuto gestire un girone non facile, dove c'era dentro il Barcellona, il Borussia Mönchengladbach e il Celtic. Comunque non era una qualificazione così scontata. E si è un po' incartato nelle rotazioni. Lui ha fatto un turnover quasi selvaggio tra campionato e Coppa. Questo gli ha permesso di centrare la qualificazione nel Champions League, ma secondo me gli ha fatto perdere identità a una squadra che ha fatto troppi cambi, e per questo è stato, secondo me giustamente, persino Guardiola, l'allenatore forse più influente negli ultimi 50 anni, criticato in Inghilterra, perché se cambi troppo spesso modulo e formazione, cioè, soprattutto poi quando sei all'inizio del lavoro come Guardiola. Esatto. Rischi che i giocatori non ci capiscano più nulla, e rischi che tu perda la tua identità di squadra, certo. Soprattutto, come dicevi tu, nei primi mesi di gestazione. Esattamente, di gestazione di un calcio che non è esattamente semplice da capire. Grazie Paolo, ci sentiamo presto. Alla buon prossima. Lavoro. Grazie a Paolo Ciaravano. Intanto mi ha raggiunto Giovanni Capuano, il signore della domenica, per una... Così, una precisazione che volevamo fare. Sì, una precisazione che dobbiamo fare, perché è anche doveroso. Allora, Carlo, c'è stato segnalato che tra i tifosi della Lazio, sui social, ma non solo, in queste ore ci sono molte proteste, molte richieste di chiarimenti su una cosa che è successa domenica in diretta, poco dopo le 18, nel corso di tutti i convocati weekend. Il nostro Andro Mercu, lo dico per chi non l'ha sentita, imitando come ha fatto tante altre volte il ministro Gasparri, ha fatto un'ode a Strootman, una specie di presa in giro sulla vicenda dell'acqua lanciata da Strootman a Cataldi, l'espulsione, la prova TV, insomma tutte le polemiche che ci hanno tenuti vivi la settimana dopo il derby. Dentro questa ode ha citato la parola razzo, che è stata interpretata come riferimento alla dolorosa vicenda del povero Papalelli, il tifoso laziale morto proprio perché è colpito da un razzo negli anni 70, prima di un derby. Ora, io lo voglio dire, lo diciamo serenamente, non è così. Non era intenzione di Andro, che in questo momento è molto scosso per quello che sta succedendo, non era ovviamente intenzione della trasmissione, non era intenzione di chi la cura, di questa emittente, fare alcun riferimento alla morte tragica di Paparelli. Quella parola, razzo, è stata usata per trovare una rima e chiudere l'ode con un'altra invettiva sarcastica nello stile di Andro Mercu, e questo è. Quindi ci spiace molto che quella parola si prestasse, come si è prestata, a essere fraintesa, a essere mal interpretata. Non c'era, ripeto, alcuna intenzione di riaprire una ferita mai rimarginata nella testa e nel cuore di chi ama il calcio, lo segue e prova a raccontarlo anche alle volte cercando di strappare un sorriso. Certo, e con questo direi chiudiamo questo tipo di discorso, e quanto ha detto Giovanni vale, e ovviamente ci risentiamo domenica anche con Andro Mercu. Intanto tra poco il Falco e il Gabbiano, l'altro giorno, insomma è un periodo in cui il Falco e il Gabbiano cerca di rubarci la seggiola, perché un sacco di puntate a tema sportivo, l'altro giorno sul Chapecoense, la tragica vicenda della squadra brasiliana che ha avuto quel protagonista di quel disastro aereo. Oggi invece si parla di Jimmy Jimbo Connors, il campione maleducato, il genio della racchetta, l'ex marito, molto ex, della coniglietta di Playboy, l'uomo che ha infiammato il tennis negli anni 70-80 insieme a Borga e appena prima di John McEnroe. Dunque restate con noi per il Falco e il Gabbiano. Tanto saluto tutti, saluto tutti, saluto tutti.